Ecco. Ok, Pasnik, Fedo, Caro Giuniti, estate 2008, Yuloman, sotto la mia sella c'è una boccia di benza, do fuoco alla mia city, esplodo le fondamenta. Vuoi che menta, Imperi è stupenda, lo dico se sugli occhi ho la bandana del commenda. In stasi più di Alberto Stasi, aspetto il mio giudizio, metto le due giacche e giro l'orifizio. Zip, drive by, pago ogni vizio, c'ho l'amore a Bergamo, un lavoro parta e questo è l'inizio del mio addio a tappa fissa in piazza. Un bye bye ad un povero Chris e dalla sua ragazza. Ci trovi a chi l'ha visto, Pasnik Fedo più fabbietto, lo sai, baby. E ne approfitto. Drive by sul motorino, prestato, due giubbotti o d'inverno muori congelato. La mia Renault rest in peace, non c'è mai un testa coda senza il bis. La fiancata di Chris e di Lometti sventati sull'auto di One Piece. Scordati il mio numero, please, mettimi nel conto degli amici scomparsi. Chi non l'ha capito ancora è strada a farsi. Per me solo carriera, palletta, scopa e cera. Forse è la volta buona, no more San Giorega. Non fumo più le canne perché sono paranoico. Le droghe che ho ingerito m'ha mandato al manicomio. Colpisco e scappo, ma sono a secco. Bandana sul viso, stereotipo da ghetto. Fabietto, col pezzo nel bauletto. Massimo rispetto, low ride sullo scarabeo senza cavalletto. Muoviti, sono due ore che ti aspetto. Lista ricercati, ti prometto, scarponi di cemento, ma se piove zero, resto dentro. Drive-by guidati, coi due ruoti truccati, come lisce, non rallento sulle strisce. Per la street borgo, bere fino al faudo. Drive-by zip senza collaudo, accelero il cauro. Rubo caschi, ti sparo, tu caschi, il pezzo nella cinta per sentirci più maschi. Pasnik Fedo, Fabio Terzo, per Caro Giuniti 2008. Yeah, Yuloman, JJJ. Borgo bere fino al faudo, faudo, faudo, senza collaudo, collaudo, incauto, incauto, incauto.